Noi riteniamo che se si vuole dare un futuro all'industria bisogna ascoltare chi nell'industria ci va quotidianamente. Noi rappresentiamo i lavoratori che sono il vero valore aggiunto all'interno dell'impresa, attraverso le loro competenze, attraverso il loro impegno, ma soprattutto attraverso la professionalità. Come FinFion Wilm abbiamo investito nel contratto nazionale proprio sulla professionalità delle persone, quindi riteniamo di essere gli interlocutori giusti per poter veramente fare proposte che possano dare futuro all'industria. Sì, noi abbiamo alle spalle governi di tutti i colori e le nature che si sono avvicendati alla guida politica di questo paese nel corso degli ultimi anni. Hanno però tutti quanti avuto un comune denominatore, una scarsa attenzione alle istanze prodotte dal movimento sindacale. In questo modo però l'esperienza ha messo in evidenza in termini chiari, inequivocabili, che il paese non sta uscendo dalla crisi, non è uscito dalla crisi, anzi si corre il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione. Abbiamo il diritto-dovere di essere considerati degli interlocutori da parte delle forze politiche e ovviamente dal governo. Stiamo vivendo una fase congiunturale dove potrebbe anche essere che a breve i cittadini siano chiamati ad esprimere il loro voto e quindi può anche essere che ci sia un nuovo governo, casomai da partire da settembre, ma la nostra posizione non cambierà, non è cambiata e non cambia con questo governo, non cambierà con quello futuro. E al centro ci deve essere la ripresa delle condizioni che rimettono in moto l'economia di questo paese partendo da processi di politiche industriali serie che sono venuti a mancare in questi anni e da dinamiche di riduzione delle tasse a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che sono quelli che in questi anni del dopoguerra in avanti hanno sempre pagato regolarmente tutto quanto. Il 14 giugno le metalmeccaniche e i metalmeccanici scioperano su una piattaforma proposta da FinFion Wilm per mettere al centro l'industria, il lavoro metalmeccanico, per chiedere a 6 mesi della scadenza dei contratti attenzione ai salari, c'è cioè un'emergenza salariale, i salari vanno difesi con la leva fiscale, quindi riducendo le tasse sul lavoro dipendente, estendendo la contrattazione aziendale nelle fabbriche e negli uffici e con i rinnovi dei contratti nazionali. I metalmeccanici scioperano anche per chiedere giustizia fiscale e giustizia sociale, chi più ha deve pagare di più. I metalmeccanici scioperano a Bologna e partecipano alla manifestazione di Firenze per dire anche che va contrattata l'innovazione, va ridotto l'orario di lavoro quando le aziende fanno investimenti tecnologici, va migliorata la conciliazione tra tempo personale e tempo di lavoro, va difeso il diritto allo studio. Bisogna investire sull'intelligenza delle persone che lavorano. In questa regione, in questo territorio, a Bologna, abbiamo una contrattazione molto avanzata, salari alti, presenza del sindacato nei luoghi di lavoro. Può essere un esempio positivo per tutto il paese. I metalmeccanici scioperano e chiedono a tutto il mondo del lavoro, spingono avanti tutto il mondo del lavoro e a un'unità ritrovata anche di CGIL e CISL UIL per chiedere che il mondo del lavoro deve essere ascoltato dal governo, dal sistema delle imprese, dalle aziende, da Confindustria, perché siamo la parte del paese che paga le tasse, che tutti i giorni i lavoratori che si alzano producono la ricchezza del nostro paese. Un tema che è uscito molto, diciamo, anche oggi è stato quello degli ammortizzatori sociali. Vi chiederei sia un po' di dati rispetto anche al territorio di Bologna e dell'Emilia-Romagna, sia quali sono le richieste che fate anche in questa piattaforma. Sì, a Bologna oggi ci sono 3.000 lavoratori metalmeccanici coinvolti in ammortizzatori sociali. È un numero non emergenziale, ma che un po' preoccupa perché sono dati in crescita. C'è un tema che nella piattaforma FinFion Wilm pongono, che è la necessità di avere ammortizzatori sociali universali, cioè tutti i lavoratori devono avere il diritto che se la loro azienda va in difficoltà non perdono il posto di lavoro. Avere gli ammortizzatori sociali è sempre stato un vanto per il nostro paese, perché quando c'è stata la crisi abbiamo potuto mantenere le professionalità, il sapere, l'intelligenza dei lavoratori dentro le aziende e non disperderle, e quando poi è tornata la ripresa le aziende avevano il rischio di non avere più le competenze dei lavoratori dentro la propria impresa. Quindi la richiesta è un sistema universale di ammortizzatori sociali che costino meno, che siano a disposizione di tutti, che ci siano indipendentemente dal contratto di lavoro, quindi un diritto individuale della persona se l'azienda in cui lavora va in crisi non perdere il posto di lavoro. Una richiesta anche al sistema delle imprese e anche alle aziende di non licenziare individualmente i lavoratori perché si producono ferite, tensioni sociali. Il nostro territorio, Bologna soprattutto, ha una modalità di affrontare i problemi insieme. Questo territorio forse produce un sistema innovativo di relazioni sindacali perché si fanno gli accordi migliori, si sperimentano forme anche di partecipazione dei lavoratori attraverso il sindacato alla contrattazione e alla scelta delle imprese. Penso che vada evitato di scaricare sulle persone più deboli, i precari, le donne, i migranti, le tensioni nei luoghi di lavoro con licenziamenti o anche ricorso agli ammortizzatori sociali. Perfetto, un'ultima domanda. seconda pratica ci saranno tre città, diciamo il 14 giugno, Milano, Napoli, Firenze. Tu dicevi prima Bologna andrà a Firenze, quindi vi chiederei anche come, se siete già organizzati su come si andrà a Firenze. Sì, abbiamo organizzato dei pullman che partono da tutta l'area metropolitana bolognese. Ad oggi siamo circa più di 20 pullman che, nel caso in cui dovesse essere necessario, e noi ce lo auguriamo, aumenteremo, anche perché la manifestazione è vicina e quindi da tutta l'area metropolitana è agevole poter partecipare alla manifestazione, che ci auguriamo colorata, bella e pacifica. I lavoratori e lavoratrici contattino i delegati sindacali nelle loro aziende, nei posti di lavoro o fin fiumi territoriali.